Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e bentrovati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo un radiodocumentario in collaborazione con History Channel sulla dinastia Hilton e sul loro miliardario impero. Dal capostipite Conrad alle pronipoti Paris e Nikki, tutti gli Hilton hanno sempre amato stare sotto le luci dei riflettori e sulle copertine dei giornali. Scandali, successo e fama hanno reso gli Hilton una famiglia hollywoodiana. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel giovedì 2 aprile alle 6, col titolo Hilton, la dinastia degli scandali. Gli Hilton sono praticamente ovunque. In televisione, alle prime dei film, nelle rubriche di cronaca rosa. In effetti, al giorno d'oggi, è difficile evitarli. Katie conduce un programma televisivo, Paris partecipa ad un reality e Nikki ha una linea di borse. Paris e Nikki sono le sorelle Hilton, famose per la loro bellezza e l'attenzione che attirano. Rappresentano ricchezza, fascino, successo. C'è del fascino intorno a questo cognome. Una volta qualcuno mi ha detto che probabilmente è il nome più conosciuto al mondo. Dopotutto, Paris e Nikki sono le pronipoti di Conrad Hilton, l'uomo che ha rivoluzionato l'industria alberghiera. Ha creato la moderna industria alberghiera. Lo descriverei come un pioniere. Lui ha capito prima di chiunque altro il potenziale dell'industria alberghiera a livello mondiale. Oggi gli hotel Hilton sono sparsi in tutto il paese e la società di Conrad Hilton, nata quasi per caso, vale circa 9 miliardi di dollari. Le sue famose pronipoti erediteranno ognuna una fortuna che si avvicina ai 30 milioni di dollari del patrimonio di famiglia. Prima di stabilirsi in un attico al Walford Astoria, i loro genitori hanno vissuto in eleganti località come Southampton e Bel Air. Le loro stanze sono come dei centri commerciali. Hanno armadi enormi. Ci sono vestiti da una parte, borse dall'altra. È il sogno di ogni ragazza. Hanno amici tra le più famose celebrità e frequentano le feste più chic. Ma per l'opinione pubblica, ossessionata dalla vita dei ricchi, non è mai abbastanza. Gli Hilton hanno uno stile di vita grandioso. Hanno case davvero lussuose e conoscono molta gente importante. Sono ricchi, belli ed eleganti e non devono svolgere ogni giorno dei lavori noiosi. È affascinante. Nell'estate del 2005, la NBC manda in onda un programma in cui i partecipanti si sfidano a vivere secondo lo stile di vita degli Hilton. Il premio? $200,000. Lo show, il cui indovinato titolo è I Want to Be a Hilton, è condotto da Katie Hilton e prevede l'intervento di esperti chiamati a discutere sulle implicazioni della bella vita. Ma gli odierni Hilton potrebbero non volere il tipo di notorietà che hanno raggiunto, eppure non sono mai troppo lontani dalle telecamere. Fondamentalmente sono una famiglia hollywoodiana. Appartengono a un ambiente in cui basta farsi fotografare o stare davanti a una telecamera per essere famosi. Nel loro ambiente i membri più considerati della comunità non sono importanti uomini d'affari o politici di rilievo, ma i divi del cinema e della televisione. Ecco da dove proviene la loro scala di valori. We love Prada. I've been wearing it since teenage. Yeah, since it came out we've been wearing it ever since we were little, so we love Prada. Paris e Nikki, i volti più noti della famiglia, fanno la loro comparsa in scena sul finire degli anni 90 dopo il trasferimento da Hollywood a New York. Ancora adolescenti, frequentano i nightclub e le serate di beneficenza in tutta la città, spesso in compagnia dei rampolli di altre famiglie facoltose. I fotografi le notano subito, sono carine, vestono bene e a loro piace mettersi in posa. Molto presto appaiono sulla cronaca rosa. A differenza di molti loro amici, le due ragazze sembrano apprezzare l'attenzione della stampa. Le chiamavano le celebri debuttanti, perché non facevano altro che andare alle feste, e a New York si diventa famosi anche così. E nel caso delle sorelle Hilton, le voci sulla loro condotta originale, alle feste e nei locali, diventano argomento di servizi giornalistici. Giravano voci soprattutto su Paris. Si diceva che ballava sui tavoli, che a volte non indossava la biancheria intima, oppure che litigava con altre ragazze. Le disinibite sorelle guadagnano ben presto la reputazione di ricche ragazze cattive. Ma tra loro è Paris, la più grande di 2 anni, che accetta più facilmente l'attenzione della stampa. Nikki è più riservata ed è più intellettuale. Non ama i riflettori come sua sorella. Penso che il fatto che si sia tinta i capelli sia un segnale chiaro. È come se avesse detto, faccio ciò che mi sento di fare. Paris adora essere al centro dell'attenzione. Quando le chiedono di fermarsi per farle una foto, lei dice, ma certo! E rimane lì anche 20 minuti a fare quello che le chiedono. È bellissima, ma è anche polemica. Per questo nascono i pettegolezzi. E in più è ricca. Ma non è la prima tra gli Hilton a finire in prima pagina. Denaro e fama sono una tradizione di famiglia cominciata molto tempo fa. Conrad Hilton, il bisnonno di Paris e Nicky, ha accumulato una fortuna con la catena di alberghi che porta il suo nome. Ha vissuto una vita brillante, era un uomo molto vivace. Conrad Hilton amava ballare, gli piaceva divertirsi e aveva fama di conquistatore. Usciva dal lavoro alle 6 di sera e poi andava a divertirsi fino alle 3 o alle 4 di mattina. Senza dubbio gli piaceva la vita di Hollywood. Lui aveva capito che avrebbe giovato ai suoi affari, perché in questo modo avrebbe fatto conoscere il suo nome. Quasi all'apice del successo finanziario, Conrad Hilton sposa un'attrice, l'esotica e affascinante Zsa Gabor. Nel 1942 diventa la sua seconda moglie, dopo una tumultuosa storia durata 4 mesi. Il matrimonio, dal quale nasce una figlia, Francesca, dura solo pochi anni. Accompagnarsi a belle donne diventa una tradizione di famiglia. Nick, il figlio di Conrad, segue le orme del padre quando frequenta e poi sposa la 18enne Elizabeth Taylor. È un evento mediatico. Un'altra unione destinata a durare poco, solo 7 mesi, a causa dei violenti eccessi d'ira di cui la Taylor accusa Barron. Ma nonostante le accuse, il fascino di uno degli scapoli più ricchi d'America non è minimamente offuscato. E nemmeno nuociono al nome degli Hilton. L'attuale prestigiosa immagine della famiglia non ha nulla a che fare con le umili origini dell'impero degli Hilton. La città mineraria di Sant'Antonio nel Nuovo Messico, dove Conrad Hilton è nato. A Conrad i genitori insegnano che per avere successo bisogna pregare e lavorare. E lui aggiunge anche sognare. E per lui sognare significa lasciare Sant'Antonio nel Nuovo Messico per uscire dall'ombra di suo padre e trovare il suo successo personale. Frequenta il college per un breve periodo, oltre a far parte per 2 mandati dell'assemblea legislativa dell'appena nato Stato del Nuovo Messico. Dopo l'esperienza politica, decise di mettersi in affari e aprì una piccola banca a San Antonio, dove vendeva azioni, cercando di far decollare i suoi affari. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Hilton vende la banca e si arruola. Ma da casa arrivano cattive notizie. Nel 1918 suo padre, il primo a Sant'Antonio a guidare un'utilitaria Ford, muore in un incidente stradale. In Texas è scoppiato il boom petrolifero. Hilton eredita da suo padre $5,000 che intende usare per acquistare una banca a Cisco, nel Texas. Durante il viaggio si ferma in un piccolo albergo dove alloggiano gli operai che lavorano nei bacini petroliferi. Era seduto nell'atrio dell'albergo, in attesa di concludere la trattativa con la banca dall'altro lato della strada, quando si rende conto che quell'albergo lavorava molto. C'era una fila di persone in attesa della registrazione e il bar era affollato. Allora ha capito qual era l'affare da concludere. Quando accantona l'idea di acquistare la banca, possiede $35,000 che utilizza per comprare l'albergo e le sue 40 camere. Da quel piccolo hotel, che lui descriverà come una via di mezzo tra una misera pensione e una miniera d'oro, nascerà un impero da miliardi di dollari. In appena un anno Conrad Hilton ammortizza il suo investimento con quello che definisce uno scavo in cerca di oro, sfruttando al massimo le risorse dell'hotel. Aveva convertito il ristorante in un dormitorio, i cui posti letto venivano affittati secondo turni di 8 ore. Hilton investe i profitti ottenuti e nel 1923 possiede 5 hotel. Hilton diventa ben presto una celebrità nel Texas. Famoso per il suo fiuto per gli affari e per la sua capacità di negoziazione, non accetta mai un no come risposta. A 40 anni si appresta a festeggiare il suo primo milione di dollari. Il 2 agosto 1925 viene inaugurato all'Hotel Hilton di Dallas. È stato un enorme successo finanziario. Quando Hilton è entrato in affari, la maggior parte degli alberghi e delle società operavano a livello locale ed erano gestiti dai singoli proprietari. Ma Hilton vuole vedere i suoi alberghi sparsi per tutto il Texas. Il suo slogan era Minimax, il massimo servizio ad un costo minimo. Funziona. All'inizio degli anni 40, Hilton sposta il suo quartier generale a Beverly Hills e aggiunge nuove prestigiose sedi alla sua catena. Il Town House a Los Angeles, l'Hotel Plaza a New York. Il Palmer House e l'Hotel Stevens a Chicago. In quel periodo l'Hotel Stevens era l'albergo più grande del mondo. Era riuscito ad ottenere da ognuna delle sue proprietà un profitto molto più alto di quanto avevano fatto i precedenti proprietari, e questo gli fece guadagnare molto rispetto nel mondo dell'industria alberghiera. Hilton non è un titolare invadente, lascia la gestione ai suoi direttori riconoscendogli delle provvigioni sui profitti mentre lui si occupa di questioni dirigenziali. Nel 1947 la Hilton Hotel Corporation è la prima catena alberghiera quotata alla borsa di New York, ma l'unico hotel che desidera davvero rimane fuori dalla sua portata, il Waldorf Astoria di New York. Ne portava sempre una foto con sé. Per lui è il più illustre. E finalmente nel 1949, all'età di 62 anni, raggiunge il suo obiettivo. Conrad Hilton acquista il Waldorf Astoria per 3 milioni di dollari, un ben misero prezzo per l'uomo che con un patrimonio di 100 milioni di dollari è considerato tra i più ricchi d'America. Nel settore alberghiero è il traguardo più alto, ma non si ferma qui. Nel 1954, con la più grande transazione immobiliare del tempo, acquisisce una catena chiamata Statler, che fa di lui il colosso dell'industria alberghiera. Inoltre sta costruendo un altro impero, all'estero, da Atene a Parigi. Da Roma ad Istanbul, l'Hilton è l'albergo da privilegiare. L'Hotel Hilton era l'albergo migliore e il fulcro della scena sociale di molte destinazioni. Ma nel 1969, all'apice del successo, Conrad Hilton riceve una terribile notizia. Il suo primogenito, Conrad Hilton Jr., Nick, muore in seguito ad un'insufficienza cardiaca all'età di 42 anni. Anche prima della morte di Nick, Conrad stava istruendo Barron per un ruolo di primo piano. Questo porterà grandi cambiamenti nella società e, grazie a figli e nipoti, anche al nome degli Hilton. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario Hilton, la dinastia degli scandali, in collaborazione con History Channel. Conrad Hilton, il fondatore dell'illustre catena di alberghi, ha saputo godersi la vita. Al contrario, il suo secondogenito, William Barron Hilton, chiamato Barron, è l'esatto opposto. Viene descritto come un ragazzo serio, non brillante, ma determinato. Dopo il divorzio dei suoi genitori nel 1934, va a vivere con il padre a Bel Air. Spesso Conrad è troppo occupato per dedicare abbastanza tempo al figlio, ma Barron lo ammira profondamente per le sue qualità. All'età di 45 anni, Barron non è totalmente sicuro di voler seguire le orme del padre. Barron aveva ereditato dal padre e dal nonno le sue capacità imprenditoriali. Per questo voleva farsi strada da solo. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola in Marina. Si sposa molto giovane e, dopo aver avviato una fiorente attività commerciale, nel 1951, per la gioia del padre, entra nella Hilton Corporation. In 15 anni diventa presidente ed amministratore delegato. Suo padre rimane presidente del consiglio di amministrazione. In qualità di presidente, Barron cerca nuovi ambiti in cui espandere gli affari di famiglia, come il gioco d'azzardo. I risultati non si fanno attendere. Il Las Vegas Hilton e il Flamingo Hilton producono quasi la metà delle entrate di tutta la società. Ma nel 1979 perde la sua guida. All'età di 91 anni, Conrad Hilton muore. L'uomo che ha creato l'industria alberghiera come la conosciamo oggi non c'è più, ma la sua eredità continua. Ha portato in questo mondo disciplina e professionalità. Ha creato un modello e gettato le basi della gestione manageriale. Alla morte del padre, Barron gli succede alla carica di presidente del consiglio di amministrazione. Dimostra di essere brillante ed avere lo stesso senso degli affari di suo padre. Barron Hilton è stata una delle prime persone a capire il valore del franchising e l'utilità di gestire un albergo piuttosto che possederlo. I rischi sono minori e se l'albergo va bene, il profitto è maggiore. Una strategia che oggi adottano molti alberghi. Inoltre analizza a fondo le sue proprietà e punta ancora più in alto. La rivista Forbes lo inserisce regolarmente nella sua lista dei 400 uomini più ricchi d'America. La sua vita è caratterizzata da sfarzo e lusso. ma a dispetto della sua ricchezza, Baron Elton mantiene un profilo estremamente basso. Al contrario di suo padre, non ama ballare e, diversamente da suo nipote Paris, non è costantemente nel mirino dei fotografi. Non gradisce troppa pubblicità e ama trascorrere del tempo a casa, con la famiglia. È un uomo meraviglioso che non ama la pubblicità, ma nello stesso tempo, quando entra in una stanza, è impossibile non notarlo. Nel 96 Barron assume un ruolo di secondo piano nella società quando Steven Bollenbach, estraneo alla famiglia, prende il suo posto di presidente e amministratore delegato. Era tanto intelligente da capire che stava invecchiando e che doveva lasciare il suo posto ad un manager che portasse la società ad un altro livello. Bollenbach aumenta il numero delle proprietà gestite dalla compagnia e di quelle in franchising. La Hilton diventa una società che da circa 300 alberghi arriva a contarne 2200. Avevano acquisito un grande innovatore e continua ad essere così. Ma solo pochi Hilton si occupano degli affari di famiglia. Le nuove generazioni cercano successo oltre a prestigio e fama, a prescindere dai famosi hotel. C'è un'enorme quantità di denaro che dovrà essere divisa e una prospicua parte di quel denaro andrà in beneficenza perché Barron Hilton è un grande filantropo. Per questo alcuni componenti della famiglia non aspettano immobili. Katie ha sempre desiderato essere famosa. Voleva fare l'attrice. La moglie di Rick, Katie Hilton, ha riscosso un certo successo in televisione come giovane attrice. Ma dopo il matrimonio, nel 1978, a soli 19 anni, si è dedicata alla famiglia. Nel 2005 Katie ritorna in televisione come conduttrice di I Want to Be a Hilton sulla NBC. È stata presente in scena tanto quanto le sue figlie. Inoltre si preoccupa anche della loro carriera. Katie incoraggiava le sue figlie ad andare alle sfilate di moda, alle feste, ad essere fotografate. Le spronava a fare carriera. Ricordo che Katie portava Paris e Nicky a New York ad una manifestazione chiamata Fifi e World. Volevano creare una linea di profumi, allora erano molto giovani e quasi sconosciute, ma penso che volessero entrare in quel mondo. Così è stato. Paris Whitney Hilton, la più grande, da bambina è soprannominata Star. Cresciuta in un ambiente di celebrità, ha sempre voluto fare la modella e l'attrice. Ha sempre desiderato essere famosa. È stata solo una questione di tempo. Nicola e Olivia, o Nicky, più giovane di 2 anni, sembra meno interessata alla notorietà e più attratta dalla moda. Nicky ha ereditato dalla famiglia le sue qualità professionali, ma sua sorella maggiore ricorda il suo bisnonno per altri aspetti. Non le è mai piaciuto andare a scuola, ma come Conrad è spinta dall'ambizione. Lei ama e comprende lo scintillante e abbagliante mondo delle celebrità. La prima volta che l'ho incontrata ho pensato che fosse geniale. La incontravo a tutte le feste a cui andavo e la vedevo parlare con tutti. Sapeva bene quello che stava facendo e non è affatto stupida. Lavora molto e con questo intendo dire che non sta a casa ad oziare. Al contrario, è costantemente in posa per i fotografi. Durante l'adolescenza si fa conoscere per i suoi eccessi piuttosto che per il suo talento, ma con il tempo riesce ad attirare l'attenzione di alcune televisioni. Nel 2003 la 22enne Paris e la sua amica Nicole Richie, figlia del cantante Lionel Richie, diventano le protagoniste nel reality show The Simple Life. L'obiettivo del programma è dimostrare che due ragazze ricche non hanno idea di come si viva o ci si comporti nel mondo reale. Il programma ha sempre maggiore successo e nel 2005 va in onda la terza stagione. Ma poco prima del debutto, il passato non sempre innocente di Paris fa la sua comparsa sotto forma di videocassetta. Il filmato, che alla fine del 2003 viene diffuso su internet, mostra una 19enne Paris durante un rapporto sessuale con il suo fidanzato Rick Salomon. Nonostante le insinuazioni, Paris nega di aver avuto alcun guadagno dal video. E intanto la sua carriera non solo è salva, ma prospera. Tutti pensavano che ne sarebbe uscita rovinata e la gente si chiedeva se il reality sarebbe stato annullato, ma invece lei non è stata minimamente danneggiata. Tutta la faccenda l'ha solo resa più famosa. Si è famosi per esserlo ancora di più, giocando il ruolo della bionda frivola? Per molti Paris Hilton è tutt'altro che frivola e superficiale. È un errore pensare che Paris sia un'oca. Credo che non lo sia affatto. Il nome degli Hilton è sinonimo di cronaca rosa. Evoca immagini di alberghi, ricchezza, fascino. E a volte anche scandali. Ma gli Hilton non si sono mai fatti scoraggiare dalla stampa. Allo stesso modo del patriarca Conrad Hilton, ritenuto un rude texano dalla società newyorkese, appena arrivato in città. Anche la sua bisnipote è accusata di essere famosa semplicemente per il nome che porta. Conrad Hilton è andato avanti, nonostante le insinuazioni, cambiando il volto degli alberghi di New York. Anche Paris prosegue per la sua strada e ha coronato il suo sogno di bambina. È stata una modella e ha recitato per il grande schermo. Nel 2004 ha avuto un ruolo nel remake del film La maschera di cera. Intanto, la società da 9 miliardi di dollari che porta il suo nome, la Hilton Corporation, prospera. L'enorme popolarità di Paris potrebbe involontariamente giovare alla società del suo bisnonno. Nessuno vorrà ammettere che probabilmente è anche merito suo, ma sono sicuro che la gente lo pensa. E chi frequenta i loro hotel, in caso di problemi, potrebbe pensare: ne parlerò con Paris e suo padre, ma Paris non gestisce la società. Chissà cosa penserebbe Conrad Hilton di tutta la pubblicità della sua bisnipote. Credo che Conrad, promotore di questa tradizione, sarebbe molto orgoglioso di Paris. Credo che Paris sappia che è stato il suo bisnonno, cominciando con quel piccolo e sperduto albergo nel Texas, a fondare l'impero miliardario che è oggi. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete ascoltato andrà in onda su History Channel giovedì 2 aprile alle 6 col titolo Hilton, la dinastia degli scandali. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.